Odiamo l'Italia per quello che ci dà. Odiamo l'Italia per la politica. Odiamo l'Italia perché piove sempre. Odiamo l'Italia e ce ne andiamo di qua. C'è la radio qua.